Poesia per la mia nazione, l'Italia, Tacchi a spillo. Nata nel 45 la puttana meretrice, dalle Alpi non si vale chi non cresce e chi non sale. Questo è il punto della puttana, croce, sasce, tante grani. Sembra il 73, è inevitabile, la storia è ciclica ed è un ciclico bluff. Azione, inchiostro in azione, tu leggi coi, io ti do rivoluzione. Il fuoco sta al flow come chip in PC, a piccia qui, che ora mi occupo del mic. Notizie esplosive, domande esclusive, solito in risposta trovi voci elusive. Uvia, e pensi al sole ad Aspen, mentre in acronimo è ultraviolent aspect, aspecchio. Genova e Milano, di questi tempi strette in mano un artigiano stile cop, fuoco a fine, infila una bomba, era nord, si salta come skate in front, back, se guardi a sud, pronti in capsule, mille casini, come culo a Napoli, chi se ne occupa sta Roma, in coma, a meno che non sia in botta dalla sera prima, alternativa una routine che da pranzo ti porta nei festini porno di Maria e Costanzo, indice di gradimento, pollice verso, l'anulare regge in altro contresto, il mignolo impegno al tuo ego, ora confessa dove ti è finito il medio. Non senti il peso nelle vene, come pietra sul tuo amore, sasso nero da scagliare. Difendi il sole che c'è in te. Salvo il sole che c'è in me come l'indio. Spengo il video, potendo spegnerei pure Silvio. Al Parlamento è un convivio, dentro quattro gatti e resto tutti fuori più di Clinio. Italianità spiccia, nel piccolo ti salvi, ma qui a tradizione ti confondi. Spaghi, pizza, amore, mandolino, la decima mas, da Salò a Migliarino. I verdi giocano a rimpiattino, i rossi restano a piangere all'ombra di un ulivo, perché i neri ora blu hanno la puttana sotto braccio e ci giocano come i Marines con gli iracheni sotto ostaggio. Grandi opere pubbliche, ci si rinnova, Pretty Woman, Pretty Nation, battona ancora, ci si casca signora ora, divina antenna TV come corona, tristi, occhi spenti, stretti denti, labbra, semi sorridenti, seni prorompenti in fattura, come la grande croce che sta sulla scollatura, benedetta in natura, show tra reality ed erotico, la critica non è gradita, il palinsesto è granitico, censura, incura casta, cultura, al consiglio un evasore, l'aguzzante in questura.